Al di sopra delle previsioni, almeno per quello che riguarda la quantità, la manifestazione che ha concluso il Forum Sociale Europeo di Londra. 70.000 persone, un serpentone gigantesco che ha attraversato la città, ci volevano almeno un paio d'ore per percorrerlo dalla testa alla coda. Naturalmente però non possiamo non parlare dell'episodio che è avvenuto e che ha dato luogo all'arresto di 4 manifestanti, che è un episodio che ricostruiremo meglio adesso sui giornali, per dire che cose di questo genere non possono succedere in un forum sociale né europeo né mondiale né di nessun altro tipo, perché non può esistere che persone che partecipano alla manifestazione vengano in qualche modo picchiate dalla polizia, prelevate dalla polizia, messe su un cellulare, portate via, con un palco, diciamo, che era stato organizzato in modo non ufficiale, dire poco, direi un po' troppo ingessato, ecco, e che è stato a guardare senza praticamente fare nulla. È arrivato il momento di fare delle serie riflessioni su i forum e su non solo sulla formula del forum, che probabilmente ha fatto il suo tempo, ma anche una riflessione per vedere di andare avanti anche in un processo di condivisione reale, perché altrimenti si rischia che i forum diventino una liturgia e basta. Lo voglio dire questo fatto perché lo considero, anche se naturalmente spero che in queste ore le persone arrestate siano già state rilasciate, lo considero un fatto, diciamo, molto significativo, ed è, diciamo, un piccolo fatto storico, anche se estremamente negativo, che si è verificato in un forum. Questo episodio, diciamo così, illumina purtroppo negativamente anche l'assemblea dei movimenti sociali che ha chiuso domenica mattina all'Alexandra Palace il forum. Lo illumina di una luce, diciamo, anzi più che di una luce, di un'ombra piuttosto inquietante, perché naturalmente questa assemblea in un certo senso diciamo così aveva già risentito di un conflitto strisciante, di una polemica che da mesi si era manifestata dentro il Forum di Londra, che riguardava la questione diciamo delle differenze profonde di giudizio e di valutazione su una quantità inverosimile di questioni tra orizzontali e i cosiddetti orizzontali e i cosiddetti verticali. La mattina di domenica si è vista che questa, diciamo, differenza non si è ricomposta nel corso del forum, almeno non si è ricomposta a sufficienza nel corso del forum, del confronto che pure il forum ha favorito, ed è quindi ancora oggetto di una discussione che non è finita con tutta evidenza adesso con il forum di Londra. Tuttavia, diciamo che questo documento finale alcune cose buone le segnala, segnala per esempio una serie di appuntamenti molto significativi che da qui ai prossimi mesi impegneranno probabilmente i movimenti di tutta Europa, e che per quello che riguarda in particolare l'Italia, tendo a sottolinearlo, c'è un passaggio significativo sulla manifestazione che il Comitato Fermiamo la Guerra ha indetto per il 30 di ottobre, un passaggio molto interessante perché ritrova, diciamo, un po' dei punti di condivisione sulla questione della guerra, sulla valutazione di che cos'è la Costituzione europea e anche sui punti dei migranti. Ci sembrano 3 punti piuttosto importanti, e mi sembra di vedere che il fatto che il Forum europeo nel suo insieme li condivida, li faccia propri, è un buon segnale comunque.